известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta. Di Stefano Pistolini. I'm currently with one of four protest groups that are marching through London's financial district on their way to the Bank of England, which is the target of today's action. This is all part of the G20 meltdown, Financial Fool's Day. Molto rumore, forse per nulla, perché insomma, se avete tenuto d'occhio le televisioni, avete cercato un po' così di decifrare le immagini in arrivo da Londra, non so se sia esistita una protesta più mediatizzata di questa a margine del G20. In realtà a protestare continuano a essere poche centinaia di persone, circondate credo da alcune migliaia di reporter, fotografi, la stessa immagine, magari lo stesso brutto colpo inferto da un agente, magari a un dimostrante, viene ripreso da sette angolazioni diverse, e qui poi ci sarebbe da ragionare, no, su come queste epidemie di immagini si possono spargere per il mondo, ma diciamo che la parte dell'ordine pubblico non mi sembra particolarmente rilevante, almeno fin qui, al di là della tragedia di questo giovane morto nel corso degli incidenti per un infarto, infarto forse dovuto però anche alle pessime condizioni nelle quali si trovavano i dimostranti. È partita una indagine al riguardo, ma mi sembra però che per ora anche dentro il G20 non è che siano successi fatti epocali. Adesso fra meno di un'ora arriverà una conferenza stampa gestita da Gordon Brown, in cui si cercherà di capire poi se hanno raggiunto effettivamente e operativamente qualche risultato, ma come si diceva anche ieri con i nostri ospiti della puntata di ieri, forse ormai veramente il G20 così è un modulo, no? è un format per far sì che poi ci si trovi tutti nello stesso posto e magari in poche ore si concludano o si avviino magari dei contatti e dei lavori che poi avranno seguito in ben altra sede, magari approfittando di questa occasione comune, no? Per esempio in base al principio di chi muove per primo, no? Chi fa il primo passo, beh, lì ci si ritrova e alcune di queste attività avviate appunto che altro in chiave bilaterale a margine del G20 sembrano piuttosto promettenti. Però abbiamo subito un inviato da Londra, Sergio Nava di Radio 24, sta seguendo il G20 per IGR, per le varie trasmissioni della radio, e un aggiornamento da parte sua ci potrà mettere al corrente di come stanno in questi ultimi minuti sviluppandosi gli eventi. Buon pomeriggio, Sergio. Buon pomeriggio Stefano, buon pomeriggio agli ascoltatori. Allora, io ho fatto la premessa sulla base delle informazioni che si ricevono qua, che diciamo la parte della negatività, della protesta a margine, su tematiche peraltro importanti e interessanti, a margine del C20, però non rappresenta diciamo la notizia dell'evento, sbaglio? Ma io ti posso portare la mia testimonianza personale, per quello che ieri ho potuto poi seguire le manifestazioni e l'atmosfera nella città di Londra. Concordo pienamente con quello che hai detto, l'atmosfera nella stragrande parte della città era assolutamente tranquilla e rilassata. Certo. Ho camminato per diverse centinaia di metri trovando persone, andavano a lavorare, facevano turismo, addirittura il bus turistico londinese era in piena attività. Certo. Ci sono stati diciamo delle proteste a macchia di leopardo, la principale alla Banca d'Inghilterra, che ha avuto dei momenti di tensione in determinati punti a giornata. L'ironia della sorte, alle 2 ora locale mi trovavo lì e c'era una piazza dove assolutamente calma, sotto con una folla di diverse centinaia, anzi migliaia di persone circondate da un cordone di polizia, la gente ballava, cantava eccetera, me ne sono andato alle 2:15, alle 2:30 ora di Londra c'è stato l'assalto di qualche decina di manifestanti alla Royal Bank of Scotland. Però appunto sono stati episodi sporadici, sicuramente gonfiati dai media. Certo. E che cercavano probabilmente anche la notizia, e dirò di più, i media tedeschi già oggi davano un'occhiata al sito della ZDF, mettono le mani avanti e diranno a Strasburgo e Kehl il vertice NATO sarà anche peggio. Certo. Beh, è ormai invece imminente però la parte ufficiale, la parte dei consuntivi. Insomma, questi signori ci devono anche far vedere se poi hanno prodotto qualcosa, soprattutto nel lavoro principale che li impegnava, ovvero il vertice del G20, l'atmosfera, anche l'atmosfera tra gli addetti ai lavori che serpeggia in questi pochi minuti che ci separano dalle comunicazioni ufficiali Gordon Brown. Qual è, Sergio? Gordon Brown abbiamo appena sentito alcune sue dichiarazioni alla ripresa dei lavori dopo pranzo, ha introdotto l'ultima sessione dei lavori. Gordon Brown ha chiesto a tutti i partecipanti di fare commenti brevi di 5 minuti e ha però tra i punti elencati ha detto siamo tutti d'accordo sulla lotta contro il protezionismo. In realtà qualche cifra sta già emergendo lentamente, alla fine probabilmente così a naso potrebbe esserci anche una notizia di un pacchetto diviso in tanti in altri pacchetti di stimolo all'economia. E come? Semplicemente aumentando le risorse a disposizione del Fondo Monetario Internazionale, certo, a 750 miliardi, quindi una, certo, vittoria americana, certo, mettendo altri 250 miliardi di dollari sul piatto per il commercio internazionale, in particolare per i prestiti ai paesi poveri, e così via. Quindi diciamo poi ci si potrebbe anche avvicinare al miliardo, ai 1.000 miliardi di dollari di stimolo all'economia, se così possiamo dire, non forse come voleva Barack Obama, ma una via di mezzo. E poi c'è tutta la questione dei paradisi fiscali. Ecco, si è globalizzata la lotta all'evasione fiscale una volta per tutti, possiamo dirlo. Diciamo che in tempi di crisi probabilmente non nessuno può più farla franca. Quindi diciamo che chi prima era tollerato, ora manca, diciamo, in un mondo dove manca il credito, dove il denaro non gira, si cerca di andare a reperire tutte quelle risorse prima tollerate, prima nascoste, che però ora più che mai servono per far ripartire l'economia. C'è assolutamente l'accordo a combattere. La cosa, se vogliamo, tra virgolette, divertente, è che, come dire, si è tutti d'accordo a bastonare i cattivi, ma la lista, i nomi dei cattivi, si fa un po' più fatica a metterla assieme. Certo, la lista dei paesi canagliette, diciamo così, non quelli veramente cattivi a cui magari si pensa anche di fare la guerra, ma quelli che imbrogliano, e c'è chi c'è dentro e chi non ci vuole essere. Insomma, pare ci sia molto dibattito riguardo. Dimmi. Diciamola tutta, comunque già diversi di loro nelle ultime settimane hanno mostrato un approccio cooperativo, hanno capito, certo, quasi tutti, o almeno i principali, che così non può più andare avanti, insomma la festa è finita. Sergio, arrivano in Italia echi, come dire, pirotecnici sulle prestazioni del nostro primo ministro, che in queste occasioni, insomma, ha sempre uno stile molto, molto personale, diciamo. Diciamo che la regina forse non l'ha presa bene. No, pare proprio di no. Forse non è abituata a certi chiamati all'interno della sua corte. Diciamo che almeno la sensazione, ci sia molto di facciata in questo, come dire, e c'è l'abbraccio Obama e Medvedev, c'è, certo, richiamo Obama, Mr. Obama, però poi almeno l'Italia qui non si è vista molto. Ieri c'è stato un incontro tra Berlusconi e Taro Aso, premier giapponese, certo, mentre Obama incontrava Medvedev, incontrava Brown, mentre Sarkozy incontrava Merkel, ma diciamo a livello di incontri pesanti l'Italia non c'è stata. Poi infatti discutevamo un paio di giorni fa proprio questa logica un po' gerarchica che presiede a questi bilaterali, no? Tu vuoi, se sei un po' più piccolino, vuoi incontrare il più grande possibile raggiungibile, diciamo così. Sì, però appunto questo nelle foto o nelle foto, certo, di famiglia, certo, poi però, certo, diciamo dietro le quinte, dove veramente si misura e si valuta il peso di una nazione. Certo, comunque è già in via di smobilitazione, conferenza prima delle 5, poi cosa succede? Tutti a casa? Allora, sì, di fatto sì, forse qualche ritardo ci sarà, non si capisce bene. Diciamo che tra circa mezz'ora, forse un'ora al massimo, ci sarà la conferenza stampa conclusiva, ci sarà anche quella del premier Berlusconi, e più tardi invece sarà molto interessante la conferenza stampa di Barack Obama, per capire un po' poi come l'America come gli Stati Uniti valutano questi, gli esiti di questo G20. Oh, tra l'altro, curiosamente, le televisioni americane non stanno dando una importanza straordinaria al G20, è sicuramente secondaria a quella che dedicano al problema del budget, alla approvazione del budget, ma io intanto voglio liberare, perché so che gli impegni sono pressanti, e ringraziare Sergio Nava, buon lavoro a Londra, Sergio. Grazie a voi. Come vi dicevo, ci sono più notizie in realtà in relazione alle tensioni, anche perché poi sapete bene quando il gatto è fuori, no? E attorno al budget, all'approvazione del budget, quello che chiamano l'Obamarama, no? Sarebbe lo spettacolo a gestione unica di Barack Obama dell'approvazione del suo budget, che passa attraverso poi questa macchina straordinaria, forse di questo se ne parla meno, ma è bene raccontarla, una macchina strana, circolare, quasi a forma di spirale, a cui è addetto David Plouffe è stato il direttore della campagna elettorale, direttore strategico della campagna elettorale di Barack Obama, sta gestendo questi famosi 13 milioni di pretoriani, soldati, di volontari, chiamate come pare, insomma di ultras di Obama, e li motiva e li mette in campo ogni qualvolta serva. Per esempio, il vostro rappresentante politico a Washington sta facendo le bizze sul programma di Obama, vengono attivati i facenti parte del distretto di riferimento e parte una pressione molto forte nei confronti del rappresentante. Tutto ciò è in atto, ma i repubblicani non stanno fermi, perché è imminente la presentazione, questa da seguire con interesse, di un piano alternativo di budget gestito direttamente dal Partito Repubblicano, che comunque fa sapere che secondo loro bisogna, e comunque Barack Obama deve spendere assai meno. Quindi lì il fronte è tutto aperto e non a caso le televisioni americane si concentrano su quello. Ma invece, tornando a parlare di G20, come detto, c'è stata tra l'altro una conferenza di Ban Ki-moon, il segretario generale delle Nazioni Unite, che ha lanciato questo grido di allarme ai leader del G20 sui paesi poveri. Ha detto: temo che il peggio debba ancora arrivare, una profonda crisi politica caratterizzata da crescenti tensioni sociali, governi deboli e un'opinione pubblica arrabbiata, senza più fiducia nei loro leader e nel loro futuro, sarà un grande problema. Londra offre l'opportunità ai paesi potenti del mondo di agire e mostrare solidarietà ai loro vicini meno fortunati. Una sollecitazione partita da Ban Ki-moon, arrivata non sappiamo dove. È il momento, il G20, in cui personaggi ad esempio come Bob Geldof, no, e alfiere di un certo buonismo, tornano a farsi vivi. Sentiamolo. We don't know that yet, but what's critical is that the 50% of the world which were excluded. Sono qui per ricordare ai leader del G20 che oltre il 50% della popolazione mondiale vive con meno di 2 euro al giorno. L'unico modo per uscire dalla crisi è espandendo i nostri mercati, ha sostenuto Geldof. Mancano pochi minuti all'arrivo del G20, per ora, come abbiamo detto anche con Sergio, grandi risultanze non si sono viste, probabilmente una iniezione di fondi sarà la principale risultanza pratica di questo incontro, di questo evento. Nei prossimi giorni ciascuno poi continuerà a combattere battaglie, come dire, individuali, guerre più locali. Questo momento di grande coordinamento mi sembra diventato più che altro, no, un formidabile balletto mediatico, e poi un come dicevamo in apertura, un punto di avvio di grandi questioni che poi gli addetti ai lavori, gli specialisti, seguiranno. Sì, incontrarli in aereo, faccia di chi non fa per niente sul serio, perché l'America così come Roma gli fa paura, è il Medio Oriente che qui da noi non riscuote nessuna fortuna. Sai cos'è, come Oliver Stone, no? Che profetizzava in Wall Street, Ivano Fossati con il Medio Oriente che ha poco successo da noi e l'America che come Roma ci fa paura tanti anni fa, con questa canzone che parlava anche di uomini per niente facili, no? Poco allineati, non so se vi ricordate, non so perché ha un contatto, ha un pitch, come si dice, sull'attualità di queste ultime ore, attualità che è fatta anche da questa questione che voi proprio spontaneamente, grassroots, questo è un programma grassroots ormai, perché li pilotate dentro, poi gli argomenti li imponete in un certo senso, noi cogliamo con piacere i segnali, anche perché la pagina Facebook, quella nostra, serve anche a quello, sta crescendo il dibattito quindi attorno a questa questione di proteste che potrebbero essere molto mediatizzate, forse troppo, cioè sicuramente una ipersensibilità, no, nei confronti di piccoli eventi come quelli che circondano i manager francesi, i manager inglesi, il direttore della Banca di Scozia, quelli che vengono assediati, quelli che rompono i vetri, quelli che vengono sequestrati per qualche ora in ufficio, quelli che li circondano la macchina, c'è comunque una rabbia. Jean-Paul Fitoussi su Repubblica, un economista francese, dice, chiamiamola col suo nome, questa è rivolta popolare, noi vogliamo sapere di voi da voi che cosa sta succedendo a vostro parere nel sommerso del lavoro occidentale, è davvero così, è populismo, è troppa televisione o è rabbia vera? Express yourself. Ci avete risposto e ci avete dato pareri sempre molto decisi. Flavio ha detto una reazione al momento spontanea di persone ancora pensanti che non hanno trovato un partito che li rappresentasse. Un partito che monta sulla rabbia. Ci sarebbero dei nomi. Dopo, più tardi, con un ospite faremo qualche nome. Luigi dice esistono due tipi di imprenditori, il manager e il padrone. Il manager lavora nella sola ottica del profitto, il padrone lavora anche nell'ottica del profitto, ma guarda a lungo periodo. Andrea dice la gente cerca colpevoli, in genere manager con stipendi non legati all'andamento dell'azienda. Le forme partecipate di protesta, ovvero sindacati, partiti, sembra non servano a nulla. Allora, do it yourself. Mauro dice, ovvio, c'è la rivoluzione, siamo molto anche poliglotti, Vico li chiamava corsi e ricorsi storici e la situazione italiana, anche da noi, si torna indietro nel tempo. Hanno arrestato Mario Chiesa. Luca dice il popolo è stufo, punto. Matilde dice la gente si sente allo sbando perché fino ad ora i governi non sono riusciti a dare l'idea di unità di intenti e di consapevolezza di che cosa si deve fare. Il comando come, no, forma anche di coesione, di ritrovata coesione, empatia popolare. Marco dice ribellismo da stato adolescenziale della coscienza civica. Sandro scrive la rivoluzione è sempre stata fatta dalla borghesia organizzata, le rivolte da altre classi. Massimo e la rabbia degli impotenti e dei senza colpa nei confronti di chi ha avuto un ruolo attivo e determinante nel causare l'attuale crisi economica. Lewis scrive in cerca di capri espiatori si fanno capri espropriatori, ma meraviglioso questo, purtroppo non risolve nulla perché non tocca veramente il problema. Claudio, ma certo che la gente sta incominciando a arrabbiarsi, i soliti modelli, belle case, belle donne, abiti, gioielli eccetera eccetera, quando fuori nella realtà sociale c'è chi la casa la rischia, il lavoro neanche per mantenere una dignità non si trova, vengono licenziati i cinquantenni. Manuel, per concludere, qualsiasi motivo non può fare diritto ad avere comportamenti incivili. Roberto, era prevedibilissima, un po' settecentesca, alla francese, ma è il segno dell'esasperazione. Roberto, storie per manager in pensione da raccontare ai nipoti. Michele, vedendola dal punto di vista macroeconomico, si potrebbe dire che qualche affare è stato un bisognino fuori dal vasino. Nicoletta, mi meravigliavo che tutti stessero buoni buoni, attoniti e spaventati davanti alle notizie di grandi crisi. E no global dov'erano, Lorenzo? Penso, per prima cosa, dissento sul fatto che ci fossero più giornalisti che manifestanti, questo in relazione al G20. Adlai, non penso che ci sia da meravigliarsi dei disordini, delle rivolte, non c'è affatto di che compiacersi, perché vuol dire che, come spesso succede, la protesta e il malcontento non trovano diretta rappresentanza nelle istituzioni democratiche. E allora c'è un tema che, come dicevamo poco fa, prima dell'interruzione, sta è strisciante, ma coinvolge anche con angolazioni diverse tanta attenzione in Italia, e non solo in Italia, perlomeno in Europa, e forse non solo in Europa. C'è chi prova a parlarne in termini più sofisticati, parla di ondata di conflittualità. Oggi, come raccontavamo su Repubblica, c'è una intervista con un economista francese che invece chiama in causa addirittura la definizione di rivolta popolare. La prima pagina del Sole 24 Ore la battezza come rabbia anti-manager. Le agenzie naturalmente ne riportano ormai a raffica di questi micro eventi. È di ieri la notizia che a Milano l'amministratore delegato di un call center è stato sequestrato, mi sembra una parola molto grossa, diciamo costretto a partecipare a una assemblea da parte dei dipendenti che non ricevevano i giusti pagamenti pattuiti. Poi la situazione si è sbloccata, di fatto una ipersensibilità all'argomento e un grande interesse, perché evidentemente questo argomento descrive, rappresenta qualcosa che forse è ancora in cerca di definizione. Allora, chi ci può aiutare un po' in queste definizioni è certamente Domenico De Masi, sociologo, insegna sociologia del lavoro alla Sapienza. Lo saluto e lo ringrazio di essere con noi in trasmissione. Buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Ci dia qualche particolare, perché il tema è come dire, è complesso, al tempo stesso stimolante, forse anche vagamente pericoloso nel suo essere, come dire, poco alla volta gonfiato, no? dai media, come capita in queste occasioni. Per ora la sua valutazione qual è, parlando di questa rabbia anti-manager generalizzata, diciamo? Nella nostra storia abbiamo sempre visto questo, che quelli che si reputano sfruttati prima o poi si ribellano. A volte lo fanno in modo cruento. Quando si è ribellata la borghesia contro l'aristocrazia, non è che ha sequestrato Luigi XVI e Maria Antonietta, li ha ghigliottinati. Quindi quando siamo andati noi come classe sociale, mi reputo un borghese, quando siamo andati noi al potere, lo abbiamo fatto in modo molto drastico, diciamo così. Ancora 30-40 anni fa molti manager sono stati addirittura sono stati ammazzati. I lavoristi, per esempio, gli esperti di problemi di diritto del lavoro, da Tarantelli a Gino Giugni, hanno subito gli attacchi, in alcuni casi addirittura letali, dei terroristi. Oggi noi assistiamo a questo, che un numero tutto sommato esiguo di persone, diciamo un 200 vertici del mondo bancario, del mondo delle finanze e non so 50-100.000 loro attaché, hanno ridotto il mondo in uno stato di totale prostrazione, equilibrio, certo. E prostrazione, certo. Hanno messo sul lastrico milioni di lavoratori, spesso poi lavoratori intellettuali, e questa è la novità. Cioè, per la prima volta diciamo la parte lesa di questa situazione sociale sono i lavoratori intellettuali, i quali non hanno avuto alle spalle 200 anni di lavoro politico per assiemarsi e diventare classe, certo. Cioè diventare un gruppo compatto, ma hanno ancora tutta la frammentazione che è proprio dei lavoratori intellettuali. Però si trovano per la prima volta tutti insieme, quello che Marx chiamava la classe in sé, c'è una situazione, certo, obiettivamente di comune sfruttamento, però non ancora classe per sé, come la chiamava Marx, cioè una classe cosciente che quindi si organizza e diventa antagonista. Sì, anche perché ci sono delle unità un po' trasversali che agiscono in questo ambito. Ad esempio, c'è, al di là, a fianco dei lavoratori di grandi marchi, come sta capitando in Francia, c'è questa categoria un po' più particolare definita finora dei risparmiatori, che insomma, certo, è già, no, più di difficile collocazione, certo, in queste forme di manifestazione. Sì, diceva Marx che per esserci una classe occorreva intanto una controparte precisa e altrettanto compatta, quella che Marx identificava nella borghesia, diciamo nel padronato, nei proprietari dei mezzi di produzione. E poi occorre una consapevolezza di essere accomunati ad altri sfruttati e la capacità di organizzarsi insieme a loro. Ora, in questo momento cosa c'è? Primo è che la controparte è nebulosa, diciamo così. Sono i grandi banchieri, il grande capitale, sono i grandi azionisti, ma spesso si tratta di un insieme frammentario. ed è frammentaria anche la controparte, la parte lesa, perché si tratta di quasi tutti intellettuali che però non hanno mai fatto un'azione comune di tipo antagonistico. Però che cosa c'è? Che anche la situazione operaia nella prima e nella seconda metà dell'Ottocento era di questo genere. Prima di trovare, diciamo, da una parte dei teorici capaci di dare un paradigma e dall'altro delle azioni pratiche che furono via via le grandi e sempre più grandi rivoluzioni fino proprio a quella di ottobre. De Masi, la domanda finale da quella da un milione, ma che cosa succederà con la politica dei grandi paesi occidentali, che per ora esita? Sì, Sarkozy ha detto che è tornato dal G20, farà le sue consultazioni, ma ancora su questa rabbia, come dire, su questa manifestazione e su questo potenziale bacino di non si sa bene che cosa, i politici esitano e fanno un po' orecchie da mercante. Sarà così a lungo, pensa? Ma contro la rivoluzione violenta c'è solo un riformismo sostanzioso, diciamo. Per ora mi pare che l'unico sia Obama che abbia capito questo. Diciamo, il grande nemico della rivoluzione in America è Obama, nel senso che Obama si pone come mediatore e quindi come autore concreto di azioni che possono ridurre la rabbia. Tutti gli altri paesi, compresa l'Italia, mi pare che non stiano facendo nulla in questo senso, per cui può essere che la rabbia scoppi, e in qualche modo direi che è più fisiologica la rabbia in questo momento che non l'acquiescenza supina. certo, è quasi, come dire, è quasi più da aspettarsi in un certo senso. Certo, non è, e poi non parlerei tanto proprio di violenza solo perché che so, un bancario è stato, neppure un banchiere in questo caso, certo, è stato trattenuto in un bar per dare spiegazioni. Certo. Ma una persona che è licenziata in questo momento è una persona disperata, perché non si ritrova lavoro. Quando il licenziato è un cinquantenne, ad esempio, ha davanti a sé 30 anni di disperazione. Quindi bisogna capire, diceva Brecht, che spesso noi consideriamo la violenza del fiume e non consideriamo la violenza degli argini che lo contengono. Certo. Ora, la violenza del disoccupato ci sarà, ma la violenza di chi l'ha messo sull'astrico non è meno forte. Le motivazioni alla base ci saranno anch'esse. La ringraziamo molto del suo intervento e temo che questo, non so se diventerà una vera e propria guerra culturale, come si diceva solo qualche anno fa, ma diventerà un argomento attorno al quale varrà la pena continuare a tornare e a discutere. Grazie ancora a Domenico De Masi. Sono i vostri messaggi a seguire la partecipazione di De Masi al discorso. Cioè, andiamo da un viva la lotta di classe a un chiamiamo ancora i marxisti a fare lezione di economia. Anche qua mi sembra che la varietà sia molto ampia. Del resto abbiamo assistito solo ieri, no? Una performance di Beppe Grillo, a me viene a pensare al Grillo Country in certi casi ha parlato dei soliti 50, che parlando dei grandi manager che entrano nei CDA e poi diventano imbuti di quattrini che non si sa dove finiscano. La questione dei manager, ma soprattutto la questione di come la gente sia arrabbiata, che poi mi sembrava e delle motivazioni alle spalle di questa rabbia di cui parlava De Masi poco fa, sono sicuramente un argomento sul quale torneremo. Tra l'altro, a proposito di manager, ci ha preso gusto Tim Geithner, l'assai discusso segretario del tesoro americano, perché ha fatto sapere che cacciato Rick Wagoner, il capo, l'amministratore delegato di General Motors, sta pensando seriamente a dare seguito a che cosa, direte, alle cacciate, insomma altri nomi nel mirino, e tremano i grandi manager americani. Ma invece lasciamo lo scenario occidentale e torniamo a parlare di Israele, perché sono molte le notizie al riguardo, seguite all'insediamento di Netanyahu e a ruota di questo personaggio, che ormai non passa giorno che non faccia notizia, che si chiama Avigdor Lieberman, perché ha parlato, ha dato dei pareri personali non esattamente incoraggianti sulle possibili soluzioni alla questione palestinese, poi ha un po' rimangiato il discorso dicendo che comunque qualsivoglia siano i suoi pareri, lui poi asseconda, come è giusto che sia, la maggioranza democratica che esprime delle scelte. Ma approfondiamo l'argomento di Lieberman con Maria Grazia Enardu, non prima di darvi notizia che Hillary Clinton ha appena telefonato al neo ministro degli esteri Lieberman per fargli gli auguri di buon lavoro e probabilmente anche per dargli un appuntamento per vedersi. Poi anche l'omologo italiano Franco Frattini ha avuto una conversazione telefonica con Lieberman e ha esteso al collega l'invito a recarsi in visita a Roma prossimamente. Maria Grazia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Insomma, molto rumore per nulla, diciamo, dobbiamo imparare un po' lo stile di Lieberman, capire che è uno che fa un po' così, in fondo ce ne sono altri politici che utilizzano, no, questo metodo di colpo forte, colpo piano, carota e bastone, insomma, è questo o c'è qualcosa di più grosso sotto? Tutte e due le cose, sicuramente una personalità irrefrenabile che ha una sua, un suo profilo politico che intende conservare e mantenere anche perché lui pensa sempre alle prossime elezioni. È però anche vero che non si possono considerare queste come iniziative assolutamente personali ed estemporanee, ed è logico pensare che sia una sorta di gioco con Netanyahu, il famoso good cop, bad cop, si manda avanti Lieberman e poi Netanyahu, che è più sofisticato, più diplomatico, più profondo conoscitore degli Stati Uniti, può, virgolette, appianare. Certo è un gioco abbastanza pericoloso, perché il ministro degli esteri di una democrazia come Israele va sempre preso sul serio, anche quando fa un po' di scena. E finora le reazioni arabe sono state di totale orrore del mediatore dell'autorità palestinese. Il ministro degli esteri egiziano ha detto che non lo vuole neanche incontrare. I siriani dicono che si riprenderanno il Golan anche con la guerra. E questo è l'esordio al secondo giorno. No, ma forse quella che pongo è una questione ingenua nella sua forma, ma dopo il successo indubbio, indiscutibile di Lieberman a livello elettorale, avergli affidato proprio quel ministero, voglio dire, insomma, è una scelta anche piuttosto indicativa. Forse si poteva metterlo altrove, averlo messo come posizionamento agli esteri, insomma, ha un significato che è difficile non interpretare, no? L'aveva chiesto lui, l'aveva posto come condizione assoluta, tant'è che negli ultimi giorni, quando pareva gli potesse sfuggire di mano il Ministero degli Esteri, aveva informato Netanyahu che non sarebbe entrato nella coalizione, né lui, né i suoi 15 preziosissimi deputati. D'altra parte, nella sua precedente esperienza al governo, Lieberman era stato, appunto, nel governo Olmert all'inizio, ministro degli affari strategici, ministero che può o non può avere un significato, ma che era qualcosa di simile al Ministero degli Esteri, soprattutto per quanto riguardava la regione del Medio Oriente. Quindi lui voleva questo, l'ha avuto e non si poteva non darglielo. E il ruolo a questo punto di questi interlocutori primari che avranno con Lieberman, penso molto presto, dei contatti, a cominciare da Hillary Clinton, come si comincia a delineare? Sarà poi al tavolo delle trattative, a un virtuale Annapolis, insomma, un personaggio che saprà mediare, saprà trovare, proporre soluzioni? Come pensi di presentarlo in questo senso? Penso che saranno discussioni quelle tra gli americani e gli israeliani, in particolare Lieberman, particolarmente interessanti. C'era una dichiarazione di un portavoce americano che, cito testualmente, diceva: avremo franche discussioni. Nel linguaggio diplomatico questo è l'equivalente di una litigata da cortile. Va bene, ti ringrazio. Tra l'altro, altre notizie, altre dichiarazioni di Lieberman, che tra l'altro trovate anche sui giornali questa mattina, ma altre ne sono seguite, parlano di eventuali concessioni ai palestinesi, porteranno guerra e non pace, insomma uno scenario che si è ridisegnato con la nascita di questo governo in un modo assai particolare e che inviterà ministri degli esteri e addetti ai lavori sicuramente a ritagliare nuove posizioni riguardo a Israele e soprattutto alla soluzione della questione palestinese. Era Maria Grazia Enardo, la ricercatrice di storia internazionale all'Università di Firenze, che come sempre ci aiuta ormai da diversi mesi a decifrare la complicata, la complessa scena politica di Israele. Controllando sulle agenzie se spuntavano ultimissime relative al G20, ma è ancora presto, ma è questione comunque di minuti, perché poi si terranno le comunicazioni conclusive dell'evento. Dovrebbe essere Gordon Brown a gestire questi discorsi. Ne parleranno sicuramente i prossimi programmi di Radio 24. E questo invece era Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico e oggi anche Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti e Pietro Lacorte a Roma e Milano. La mail è jefferson2@radio24.it. Abbiamo le consuete pagine Facebook vivacissime in questi giorni, redazione Jefferson 2, per parlare, proporre, discutere, dire a noi, alla redazione, e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself per partecipare ai nostri piccoli quotidiani e forum. Iscrivetevi numerosi. La puntata di oggi è in replica a mezzanotte, a disposizione in podcast sul sito della radio, e invece torna come sempre domani a attorno alle 4, Jefferson 2, tanti saluti.